Stanotte a Genova con la pioggia sono spuntati i container. Uno accanto all'altro circondano completamente la zona di Brignole, quella dove stamattina e oggi pomeriggio ci sarà la gran parte delle azioni di disobbedienza civile. Un cerchio ancora più largo è stato fatto sempre stanotte con i blindati corazzati. Insomma, un'ulteriore blindatura della città che non tiene in nessun conto le esigenze di chi a Genova ci vive. In tutta l'area a ridosso della zona rossa stamattina non passa più nemmeno un autobus. Bisogna farsi chilometri a piedi senza sapere dove andare. Attraversare la strada è un pericolo, i semafori sono coperti dai container e bisogna schivare i blindati e le macchine della polizia. Rischia di essere una vera rivoluzione. Fino ad ora le cose sono andate in questo modo. Le multinazionali, con la potenza delle loro pressioni, chiedevano agli stati di investire in democrazia, stabilità, pace nei paesi dove poi loro arrivavano con gli investimenti veri, in denaro contante, che deve produrre profitto. La rivoluzione consiste proprio nel fatto che oggi gli otto grandi dicono che le grandi imprese multinazionali non devono arrivare solo dopo. Investire in democrazia è costoso e del resto alcune multinazionali, in termini di fatturato, sono più grandi di alcuni importanti paesi. E allora che compartecipino, facciano politica allo stesso livello degli stati nazionali. Da qui in avanti è facile immaginare il futuro. Ci sarà l'organizzazione umanitaria della Coca-Cola e quella di McDonald's, della Nike e della Nestlé. Il denaro non manca. Se queste decisioni andranno in porto, si chiuderà un'era, quella delle piccole NGO che con piccoli e poco finanziati progetti hanno inciso sul territorio, hanno insegnato solidarietà e pacifismo. D'ora in poi gli investimenti in democrazia, stabilità e pace dovranno essere produttivi, di profitto, naturalmente.